30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Un risultato oltre le aspettative, quello ottenuto dalla campagna L'Italia sono anch'io, promossa per la riforma della legge sulla cittadinanza e per il diritto di voto alle amministrative per gli immigrati. Sono oltre 200.000 le firme raccolte in 6 mesi dalle organizzazioni promotrici delle iniziative e da centinaia di volontari che si sono operati per informare i cittadini. Martedì scorso le firme sono state depositate alla Camera dei Deputati, che dovrà ora calendarizzare l'esame delle 2 proposte di legge. Buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera parliamo di cittadinanza e lo facciamo al termine di una settimana che ha visto probabilmente un passaggio importante, epocale in un certo senso, perché con quelle firme che sono state presentate c'è stata anche la forte affermazione di italiani che sono tali solo in parte di fronte alla legge, ma lo sono rispetto alla loro cultura, ed italiani di seconda generazione e in generale di un vero e proprio mondo che negli ultimi 20 anni, per ragioni politiche e culturali, questo paese ha sempre gestito in maniera quantomeno confusa. Ne parliamo con Medin Paolos. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera. Che è fotografa, nata a Milano, ma quindi è milanese da sempre, ma italiana, posso anticipare, dalla fine degli anni 90, se non sbaglio. Esattamente. Ecco. Italiana da sempre, ma riconosciuta come italiana da molto meno. Da molto meno. E poi è con noi Filippo Miraglia, responsabile nazionale immigrazione ARCI. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Buonasera. Dunque, innanzitutto i numeri. È già difficile definire quante persone possono essere coinvolte da questa vostra raccolta. Allora, Medin, quanti sono gli italiani che vengono toccati dalla necessità di una trasformazione che tarda a venire? Guarda, i figli di immigrati su suolo italiano sono quasi 1 milione, sono circa 900.000 e rotti. Tanti sono ragazzi ancora in età scolare, ma tanti altri sono già adulti, quindi si sa che poi una volta in età da lavoro le complicazioni del non avere la cittadinanza si amplificano, insomma, quindi risolviamo questo problema. 1 milione di giovani adulti, quindi immaginate come in un paese con una piramide demografica anche rivolta verso l'alto, verso appunto gli adulti anziani come il nostro, quanto sia rappresentativa questa forza, quanto sia preziosa. Filippo Miraglia, è stata una campagna che voi avete sottolineato è stata fatta camminando un po' alla vecchia maniera, andando nelle piazze e raggiungendo e mobilitando proprio i giovani. Sì, perché noi ci siamo resi conto che sul terreno della comunicazione pubblica su questo tema dell'immigrazione in questi anni siamo stati perdenti noi e mi permetto di dire anche la democrazia, perché come dicevi all'inizio c'è stato un modo di gestire questo fenomeno perlomeno confuso, io direi anche molto contraddittorio e spesso negativo, e quindi abbiamo voluto saltare la mediazione della politica e della stampa, che sono le due principali fonti di comunicazione con il grande pubblico, e arrivare alle persone direttamente attraverso, proponendo loro un'opzione diversa. Da un lato spostare il terreno del dibattito su un terreno più civile, quello che riguarda tutti gli stranieri, le famiglie, il futuro del paese e quindi non solo loro, diciamo, ma l'Italia, e dall'altro anche un argomento, per così dire, che consente alle persone di porsi domande che non sono basate su fatti di cronaca o emergenze come gli sbarchi, che riguardano sempre una piccola fetta e che poi comunque sono cose assolutamente temporanee. Questo è un terreno su cui c'era bisogno di cambiare argomento. Ecco, che cosa chiede questa iniziativa di fatto? 2 proposte di legge, in estrema sintesi quali sono? La prima è quella di riformare la legge sulla cittadinanza, ci sono tante proposte in Parlamento, noi abbiamo voluto portare in Parlamento una proposta che venisse dal basso e che introduce da un lato lo ius soli, perché quel mezzo milione di ragazzi e ragazze di origine straniera che sono nate in Italia e che oggi vivono in questo paese dovranno aspettare 18 anni per vedersi forse riconosciuto il diritto a essere italiani, e quindi per 18 anni saranno stranieri. Noi produciamo stranieri, nel 2010 ne abbiamo prodotti 78.000, cioè 78.000 bambini, figli di immigrati sono nati in Italia e saranno stranieri fino al 18° anno. Dall'altro quello di togliere dalle mani della burocrazia, cioè dalla pubblica amministrazione, la scelta sul dare o non dare la cittadinanza, cioè rendere questo un diritto soggettivo. Se uno rispetta alcune condizioni, nel caso specifico nasce in Italia da genitori di cui almeno uno risiede regolarmente da un anno in questo paese, quindi è falsa quello spauracchio che è stato lanciato più volte sul fatto che la gente potesse venire a partorire a Lampedusa, per intenderci. E dicevo, appunto, chi nasce in Italia è italiano, se uno dei due genitori è residente è legalmente soggiornante da almeno un anno. E la terza cosa è quella di spostare presso i sindaci la procedura per il riconoscimento in generale della cittadinanza, perché già oggi i sindaci sono competenti in materia di minori di origine straniera. Questo perché oggi noi abbiamo decine di migliaia, sono in crescita anche le domande di naturalizzazione e si bloccano al Ministero dell'Interno in maniera, devo dire, poco trasparente per tanti anni, per cui la gente non sa mai se riceverà una risposta positiva o negativa e aspetta 4-5 anni, e spesso quando la riceve con motivazioni assolutamente superficiali. Ecco, attesa e incertezza, questo è un elemento di fondo che caratterizza la storia degli ultimi 20 anni, di fatto gli anni in cui l'Italia ha fatto i conti in maniera crescente con questa sua trasformazione, che è sociale, che è epocale, che è definitiva e che ancora qualcuno, come dire, fatica ad adattarsi a questa idea, mentre magari adora la complessità sociale andando in vacanza negli Stati Uniti. Poi quando riguarda il nostro paese c'è un'enorme difficoltà. Medin, lei, come dicevo, è fotografa milanese, nel senso che è nata, poi chiacchierando abbiamo scoperto che è nata anche nel più classico degli ospedali pubblici di Milano, dove sono nati anche i miei figli, ma questo è un puro caso, eppure è diventata milanese soltanto 18 anni dopo. E mi ha anche detto, e sono stata anche fortunata, per cui ho avuto la cittadinanza rapidamente. Ci racconti. Sono stata fortunata per una serie di motivi. Intanto avevo tutti i requisiti richiesti dalla legge. Mia madre, senza neanche saperlo, 18 anni, già dai 18 anni prima aveva una residenza regolare in Italia, ma non è che l'avesse fatto con coscienza, si tratta anche lì di fortuna. I suoi genitori sono di origine? Eritrea. Entrambi. Sì, quindi c'è tutto un giro per cui poi l'Italia ritorna. Esattamente, no? Ci sono anche dei legami ex storici. Esatto. L'altra fortuna è che io lo sapevo ai 18 anni, ma molto prima io ero perfettamente cosciente che avrei dovuto fare una richiesta, cosa che tanti ragazzi, soprattutto a quell'età, non sanno. Adesso cioè funziona, almeno fino a qualche mese fa funzionava semplicemente con il passaparola, mentre appunto di recente, secondo me anche grazie alla spinta che ha dato questa campagna nazionale, i comuni si sono mossi e dal mio comune, quello milanese, ormai da settembre è partita una lettera per informare i ragazzi neo-diciottenni che se vogliono possono fare la richiesta di cittadinanza e che hanno una finestra di un anno per fare questa richiesta e qual è l'iter che devono seguire. Quindi infatti, incertezza da una parte contro la consapevolezza di avere un diritto da pretendere, ma con dei tempi, dei termini, quello che appunto in questo caso si parla di una scadenza di un anno, che cosa significa? È una finestra di tempo di un anno che tu da diciottenne hai per richiedere quello che dovrebbe essere il tuo diritto alla nascita, ma non è così perché abbiamo questa legge ormai del 92 vecchia, e quindi tu devi fare richiesta o hai possibilità di fare richiesta se sei nato in Italia e per quelli cresciuti già questa legge non vale, questa regola non vale più, entro i 19 anni di fare la richiesta di cittadinanza. Se no, se passa questa finestra, poi devi fare l'iter che seguono gli immigrati, diciamo. Quindi già per l'iter, diciamo, normale di chi invece arriva in Italia da adulto e avvia un percorso, appunto, che è quello classico della migrazione. 30 minuti in cronaca. L'Italia sono anch'io, bastavano 50.000 firme, credo, ne avete raccolte 200.000. Questa sera ancora con noi Filippo Miraglia, lo ricordo, responsabile nazionale immigrazione dell'ARCI, Medin Paolos, fotografa milanese, ma anche fondatrice, tra i fondatori di G2, quindi l'organizzazione degli italiani di seconda generazione. Ecco, Miraglia, ci stava dicendo di una campagna oltre i media e la politica. Vorrei che approfondisse un momento questo aspetto. Beh sì, diciamo che in questi anni questo argomento è stato trattato in maniera appunto confusa, superficiale, contraddittoria, spesso, anzi quasi esclusivamente ricorrendo a fatti di cronaca e ad emergenze. Quindi non si parlava, non emergevano le storie, i problemi, le questioni legate alla presenza dei 5 milioni di stranieri che oggi sono presenti in Italia e soprattutto le questioni che riguardano il futuro del paese. Voglio ricordare che se questo paese è in crescita da un punto di vista demografico, ma diciamo se ha un futuro, è perché ci sono tante persone di origine straniera che decidono di venire a vivere qui da noi. Siamo più di 60 milioni, saremmo 55 milioni, saremmo un paese in declino, lo diceva il presidente Napolitano nei giorni scorsi, se non avessimo il contributo delle persone di origine straniera che vengono a vivere qui. E quindi se ne è parlato in un modo abbastanza superficiale, limitato ad una o due questioni, e non abbiamo avuto la possibilità di sentire quello che succedeva realmente nel paese e di parlare del nostro comune futuro. E ecco, andando in piazza, voi cosa avete trovato invece? Abbiamo proposto alle persone appunto una discussione un po' più civile, abbiamo riscontrato che c'è una forte sensibilità, certamente un grosso consenso, abbiamo avuto anche, diciamo, dei conflitti delle persone che venivano ai banchetti per firmare, magari dicendo che non avrebbero firmato per i motivi che spesso sappiamo, legati, diciamo, all'immagine negativa degli immigrati, però questo ci ha consentito di parlare direttamente con le persone e io credo di aver fatto che la campagna abbia fatto un'operazione, diciamo, di verità su questo argomento, e noi andremo avanti perché siamo convinti che sia necessario, non perché pensiamo che la politica o la stampa, diciamo così, siano due settori negativi del paese, anzi pensiamo che debbano fare il loro dovere, tant'è che abbiamo consegnato nelle mani del Parlamento le due proposte di legge e adesso sta alla politica fare la riforma, appunto, che noi ci attendiamo, che il paese attende. Pensate magari che siamo rimasti indietro, posso immaginarla così? Rispetto a una realtà che si muove rapidamente. Ecco, a proposito di questo, la realtà che si muove rapidamente, Medin, vorrei chiedere anche a lei l'esperienza intanto sul campo e la percezione che ha un'italiana come lei di seconda generazione, quindi credo che abbia la possibilità di guardare magari con due lenti la nostra società. Arriva, sta emergendo questo cambiamento sociale, questa nuova capacità a immaginare l'Italia del futuro in questa nostra società oppure no? Guardi, intanto a me piace poco parlare di Italia del futuro perché di fatto stiamo parlando dell'Italia di oggi, cioè io non vivo fra 50 anni, vivo oggi e tutte queste cose le vedo già adesso. Poi volevo dire che sì, il cambiamento sociale avviene in modo, sta avvenendo, è già avvenuto in maniera molto più rapida rispetto al cambiamento sia politico sia il cambiamento che ci presentano i media. Anche per questo è nata Rete G2, no? Ma non solo, cioè io vedo questa spinta dal basso che si porta dietro questa campagna, cioè deve spingere la politica verso un cambiamento molto più veloce, cioè noi ci portiamo ancora dietro questa legge del 5 febbraio del 92 che appunto il 5 febbraio scorso ha compiuto 20 anni. Se devo fare un paragone, io a 20 anni sono uscita di casa, quindi sarebbe il caso che anche questa legge se ne andasse in pensione, se uscisse dal paese. Una maturità anche di questa legge. I partiti in generale, basta fare un'esplorazione anche superficiale, diciamo via web, a parte quelli che hanno delle politiche esplicitamente diciamo anti-immigrazione, ma che di fatto sono una stretta minoranza, sono tutti estremamente propositivi e a sostegno poi di una di nuove norme, ma nella pratica nulla si muove. Ecco, questo dopo il martedì scorso, dopo queste firme, che cosa vi aspettate allora che accada, Miraglia? Ci aspettiamo appunto che il Parlamento rimetta mano a quel percorso che è stato interrotto ormai da un bel po' di tempo, diciamo, in questa legislatura. Abbiamo voluto, per così dire, dare una mano alla politica perché riprendesse la discussione in Parlamento. Noi abbiamo anche come campagna incontrato la Commissione Affari Costituzionali, ci è sembrato che ci fosse una disponibilità da parte di, appunto, dicevi anche prima tu, di gran parte dei gruppi politici. Poi cosa verrà fuori dalla discussione noi non lo sappiamo, e devo dire, in questo è giusto che prevalga appunto il fatto che i partiti stanno in Parlamento, devono fare il loro lavoro, ma siamo convinti che la campagna abbia dato una spinta per riprendere la discussione e anche per farla ripartire su basi più legate alla realtà e appunto non ai fatti di cronaca o alle emergenze, e di questo abbiamo bisogno. Non abbiamo più il tempo, anch'io sono d'accordo che noi pensiamo ovviamente alla democrazia, all'Italia del futuro, ma abbiamo bisogno di una riforma oggi, perché questa cosa sta coinvolgendo la vita di milioni di persone e non è giusto che si subiscano ingiustizie, non si può aspettare oltre. Quindi il Parlamento ha il tempo e la possibilità di fare una cosa giusta riformando questa legge, e noi abbiamo dato una mano con questa raccolta di firme, questo pensiamo. Ecco, Medin Paulos, in conclusione, dopo questi mesi di attività, in realtà nello specifico G2 sono ben più dei mesi della raccolta firme, che cosa c'è nell'immediato futuro dell'organizzazione? Perché anche se la raccolta firme è finita, comunque il discorso della cittadinanza non è un discorso che può essere preso solo dal punto di vista legislativo, ma anche culturale, quindi da quel punto di vista continuiamo a fare il nostro lavoro con interviste radio, con mostre fotografiche e sempre in collaborazione con tutti i gruppi associativi e non d'Italia. Ecco, per chi fosse curioso, tra l'altro appunto si parlava di mostre fotografiche, lo ricordo, Medin Paulos è una fotografa, ma diamo anche qualche link web per poter, magari anche per qualche nostro ascoltatore che non conosce la vostra attività, per saperne di più, dov'è che possiamo andare a esplorare? Il sito di G2 è www.secondegenerazioni.it, il sito della campagna www.italiasonoanchio.it. Insomma, due indirizzi da cui partire per un'esplorazione, magari seguire questo percorso. Io ringrazio di essere stati con noi, Medin Paulos, lo ricordo, fotografa milanese di nascita, italiana soltanto da molto meno tempo, da 18 anni dopo, Filippo Miraglia, responsabile nazionale immigrazione ARCI, grazie di essere stati con noi. www.radio24.it, a proposito di home page, quella di Radio 24, per sentire e risentire tutti i programmi della nostra emittente. 30 minuti in cronaca torna come sempre sabato prossimo alle 19:30. Un ultimo ringraziamento va naturalmente a Peter Bescapè in regia. A tutti voi un ottimo fine settimana, a presto.